Letture di Radio 24. In India la tradizione dei matrimoni combinati dai genitori è dura a morire, ma ora le nuove tecnologie contribuiscono a rendere le regole meno rigide. Costano poco, sono onnipresenti e possono essere adoperati lontano dalla sorveglianza dei genitori. In India, l'avanzata dei cellulari sta rivoluzionando non solo le regole del commercio e la facilità con cui si risponde alle emergenze, ma anche le regole del matrimonio combinato. Soprattutto per chi non sa ancora leggere e scrivere bene. In un paese di 1.200.000 persone, in cui ci sono più cellulari che bagni e dove ai promessi sposi viene permesso incontrarsi solo due volte prima della cerimonia e alla presenza dei genitori, sta diventando comune farsi la telefonata serale, magari di nascosto, per conoscersi meglio. Si parla di gusti, opinioni, pettegolezzi e nel frattempo si diventa più intimi, si conquista uno spazio privato come mai prima è accaduto. La tecnologia del telefonino ha aperto nuovi scenari nelle interazioni sociali, soprattutto per le classi non agiate che hanno meno accesso a libri, giornali, TV, istruzione e soprattutto per le donne che così possono bypassare le rigide regole familiari. C'è però anche una nuova generazione di giovani che rifiuta di seguire le regole dei genitori e preferisce rivolgersi direttamente a siti di incontri per single. È il caso di Flo e Thuli Medley Deeply. Con base a Bangalore, nati per accoppiare un'elite di professionisti che aspira a un matrimonio d'amore in base ad affinità elettive intellettuali e di istruzione, più che a uno di convenienza, legato a casta, disponibilità economiche, religione, eccetera. Flo si rivolge alla fascia tra i 25 e i 35 anni. Ogni potenziale membro viene intervistato per verificarne la reale identità e intenzioni. Una volta dentro, si organizzano eventi per facilitare gli incontri faccia a faccia, feste da ballo, quiz su Bollywood e quant'altro. Oggi, molti genitori che spingono i figli a iscriversi, pagando laute e sottoscrizioni annuali. Il matrimonio combinato, uscito dalla porta, rientrerà dalla finestra? Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Mara Accettura «C'è una sposa al telefono». Dal magazine di La Repubblica del 20 luglio. Le innovazioni tecnologiche possono aiutare anche a superare indenni il Ramadan, come avviene in Kuwait. Come fare per trovare agnelli da sacrificare per la rituale rottura del digiuno durante il mese di Ramadan? In Kuwait la tradizione religiosa segue il passo dell'innovazione tecnologica e mediatica e così si è aperto un nuovo mercato, virtuale. La coppiata vincente è composta dalla popolare applicazione per fotografie Instagram e dallo strumento dell'e-commerce. In questo modo, durante il mese sacro dei musulmani, c'è chi ha postato sui siti di commercio online le proprie foto Instagram delle capre e degli agnelli in vendita. È solo l'ultima frontiera di un fenomeno sempre più diffuso e che sta assumendo caratteristiche maniacali, allo stesso modo in cui negli anni 90 gli Stati Uniti erano stati conquistati dall'e-commerce. In questo caso c'è chi ha coniato il termine Instagram Economy. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Stefano Torelli, Vendita online per rompere il digiuno, dal Magazine 7 del 26 luglio. Letture di Radio 24. Umberto Lenzi, celebre regista di polizieschi e gialli all'italiana, ha da tempo lasciato la macchina da presa per dedicarsi alla narrativa, pubblicando 4 romanzi gialli che hanno per protagonista l'investigatore privato Bruno Astolfi. Ora arriva il 5° capitolo della serie, Spiaggia a mano armata, sulla cui copertina campeggia la scritta «Lenzi è uno dei miei maestri, sono un suo grande ammiratore». La firma è quella di Quentin Tarantino, che non ha mai nascosto la sua passione per il regista toscano. Nei suoi romanzi, ambientati nell'Italia dell'immediato dopoguerra, Lenzi mescola fantasia e realtà, facendo interagire i suoi personaggi con i protagonisti dei film che in quel periodo si stavano girando a Cinecittà. È proprio nell'ambiente cinematografico che Astolfi ha sempre svolto le sue indagini nelle precedenti avventure. Ma ora, con la chiusura temporanea di Cinecittà e i pochi film ancora prodotti che vengono girati negli stabilimenti Scalera, il lavoro scarseggia anche per lui. Una sera però, mentre si trova a casa della fidanzata Elena, Bruno riceve la visita di Glauco Pellegrini, un giovane regista che aveva conosciuto qualche anno prima. Dopo averlo presentato a Elena e fatto partecipe dell'ultimo bicchiere di spumante, lo invitai a spiegarmi il motivo della inattesa visita a mezzanotte meno un quarto. Si scusò, disse che era partito in macchina alle 7 da Livorno, dopo una faticosa giornata di lavoro. Fai ancora l'investigatore, a quanto mi risulta. Certo. E io sono qui per offrirti un lavoro, sempre che tu sia libero, perché si tratta di trasferirsi per qualche settimana a Tirrenia, dove stiamo girando un film. Rimasi impassibile, ma dentro di me ero in subbuglio. La prospettiva di un incarico dopo mesi di inattività forzata e per di più nella truppa di un film mi intrigava moltissimo. Forse riesco a cambiare la macchina, se pagano bene. Pensai ancora prima di sapere che razza di investigazione mi avrebbe proposto. Allora, insisté Pellegrini sconcertato dal mio silenzio e dall'espressione funerea della mia compagna. Sì, sono libero e propenso ad accettare. Ma prima devi dirmi tutto. Chi ti manda? Di cosa si tratta? Se ci sono rischi? Quanto dovrei rimanere assente da Roma? Insomma, vuota il sacco. Si schiarì la voce e mi chiese a bruciapelo. Conosci Tombolo? Sai dove si trova? Scossi la testa in segno negativo. È il nome di un lungo tratto di pineta tra Livorno e Pisa, dopo il Calambrone e prima di Tirrenia. Quanto dista da Livorno? Chiesi per avere un'idea più precisa. 10 chilometri e 18 da Pisa. Pellegrini bevve un sorso d'acqua e riprese. Da mesi questa pineta è divenuta il ricettacolo di un gran numero di disertori americani di pelle nera, di signorine, di lestofanti, contrabbandieri, ladri e lenoni, che hanno messo in piedi un vero e proprio villaggio di fuorilegge. E la military police non interviene, osservai incredulo. Fa qualche irruzione ogni tanto con la polizia italiana, ma senza cavare un ragno dal buco. Devi sapere che la pineta di Tombolo è un groviglio inestricabile. Vi hanno piazzato baracche, filo spinato, trappole di ogni genere. Se ti avvicini, ti ricevono a raffiche di mitra. Comanda la malavita, associata nei traffici con i neri che hanno disertato perché non vogliono ritornare in Alabama, in Georgia e negli altri stati razzisti del sud. Preferiscono la bella vita italiana. Sperperare i soldi e trarre tutti i vantaggi possibili dal contrabbando di materiale bellico che sottraggono dai depositi militari allestiti nel porto di Livorno. E lei cosa c'entra in tutto questo? Intervenne infastidita Elena. Il produttore Borghi e il regista Giorgio Ferroni stanno realizzando un film dal vero a Tombolo. È una storia drammatica. Racconta ciò che accadde in quella pineta maledetta a un padre alla disperata ricerca della figlia. L'ho sceneggiato io con Piero Tellini, Rodolfo Sonego e il giornalista Indro Montanelli. Si intitola Tombolo, Paradiso Nero. Ti piace? Troverei più adatto Inferno Nero, anziché Paradiso, osservai. Chi è l'attore che interpreta il padre? Aggiunsi senza troppa curiosità. Aldo Fabrizi, un grande. Su questo non c'erano dubbi, dopo il successo internazionale di Roma Città Aperta. Scusa una domanda, dissi aspirando una boccata di fumo. Ma come fate a girare in quella bolgia? Accennò un sorriso. Abbiamo il permesso della questura e dell'amministrazione militare americana e siamo protetti da un ufficiale di colore del Michigan, John Kitzmiller. L'abbiamo assunto come consulente e interpreta anche un ruolo importante nel film. Capisco. E io in che cosa dovrei esservi utile? Si schiarì la voce e mi chiese qualcosa di forte da bere. Feci un lieve cenno a Elena che sparì per un istante e poco dopo tornò con una bottiglia di Fernet. Gliene versai una buona dose, che bevve d'un fiato trattenendo una smorfia. Devi far luce su un delitto, Bruno. Tutto è cominciato qualche settimana fa. Kitzmiller era andato con una jeep a Livorno. Stava percorrendo il viale dell'Ardenza quando notò una giovane donna che camminava barcollando lungo il marciapiede. In poche parole, la ragazza svenne. Lui la caricò sulla jeep e la condusse all'ospedale della Misericordia. Era incinta di 3 mesi e mezzo e per la fatica e il digiuno la notte stessa ebbe un aborto spontaneo. Quando dopo qualche giorno si riprese, disse a John di chiamarsi Mariuccia Costa, di provenire da Salerno. John le fece delle domande. Lei spiegò che aveva lasciato la sua città in seguito a un rapporto sfortunato con un uomo che era sparito dalla circolazione non appena saputo della gravidanza. A Pisa, Mariuccia Costa conosceva una certa Hilde che l'avrebbe aiutata a trovare lavoro come parrucchiera. Tramite quella ragazza fu assunta da un coiffeur del luogo, ma purtroppo venne bruscamente licenziata dopo 2 settimane. E con Hilde ci fu una discussione animata. L'amica non se la passava bene. Svolgeva un'attività saltuaria e non era più in grado di aiutarla. Mariuccia si trovò in mezzo a una strada, sola e priva di risorse. Senza un motivo preciso, prese un treno per Livorno. Rimase 2 giorni a vagare disperata per la città, finché non stramazzò a terra su quel viale dell'Ardenza. John Kitzmiller si impietosì, le dette del denaro e domandò per quale motivo voleva lavorare come parrucchiera. «Perché è il solo mestiere che so fare», sospirò la ragazza. L'americano promise che sarebbe tornato a trovarla dopo un paio di giorni e mantenne la promessa. Aveva ottenuto da Ferroni di far lavorare Mariuccia nel film come aiuto parrucchiera e la condusse a Tirrenia, alloggiandola in una camera al secondo piano dell'hotel La Perla. Commossa, la ragazza riprese fiducia nella vita e si buttò nel lavoro sul set, divenendo in pochi giorni simpatica a tutti per la sua abilità e riservatezza. Con il tempo, tra Kitzmiller e Mariuccia Costa, nacque un amoroso affiatamento. La sera mangiavano a un tavolo appartato, a fine lavorazione passeggiavano tenendosi per mano e qualche volta lui la portava a ballare. Un pomeriggio, domenica scorsa, sono andati insieme a Tombolo. John doveva assicurarsi che tutto fosse in regola per le riprese del giorno dopo. Hanno bevuto una Coca-Cola in una baracca adibita a bar. Poi Mariuccia è uscita e rientrata 2 minuti dopo molto agitata, pregando il compagno di riportarla in albergo. Una volta arrivati a destinazione, Mariuccia si è ritirata in camera dicendo che non si sentiva troppo bene e John è rimasto a giocare a carte fino a tarda notte con l'operatore Portalupi, il segretario di produzione Mario Maffei e l'attore Elio Steiner, che nel film impersona un contrabbandiere ma in realtà è una pasta d'uomo. E che cosa è successo dopo? Niente di particolare, solo che quando Kitzmiller a tarda notte se n'è andato a dormire ha notato la porta della camera della ragazza aperta. L'ha chiamata ma senza ottenere risposta. Mariuccia non si trovava nella stanza e il capitano, preoccupato, è corso in giardino, sul retro dell'albergo, credendo che l'amica fosse scesa per prendere una boccata d'aria. Fatti alcuni passi sul vialetto, è rimasto allibito. Fermai con un gesto Pellegrini e proseguì io stesso il racconto. Mariuccia era riversa sull'erba morta. Corrisponde? Stupito, Pellegrini assentì. Qualcuno l'aveva strangolata. Il corpo era ancora caldo. Chiamaste subito la polizia? Sì. Il cadavere della ragazza presentava un segno profondo sul collo. Le pupille sporgevano con piccole petecchie di sangue e la lingua pendeva fuori dalla bocca. Era stata uccisa probabilmente con una corda che il suo assassino le aveva stretto con forza intorno alla gola. Per qualche istante tacemmo, oppressi dalla pena per quella giovane donna così barbaramente strappata al mondo. «Devi trovare chi l'ha uccisa, Bruno. Il commendator Borghi mi ha detto che non baderà a spese». È necessario anche tirare fuori dai guai John Kitzmiller, che il giovane commissario di polizia di Tirrenia ritiene colpevole. È in stato di arresto? Sì, e senza di lui il film si ferma a metà delle riprese, capisci? Feci un cenno di assenso e mandai giù un lungo sorso di Fernet. «Dove hai lasciato la macchina?» chiesi. «Qui sotto». Mi volsi verso Elena, che scosse la testa in silenzio. Aveva già capito. «Devo fare un salto in via Piemonte per prendere quello che mi serve», le dissi a bassa voce. «Non ce n'è bisogno. I ricambi di biancheria e tutto quello che ti serve sono di là. Vado a prepararti la valigia», disse seria distogliendo lo sguardo da entrambi. Mezz'ora dopo, sulla nuovissima Fiat 1100 di Glauco Pellegrini, ci mettevamo a tutta velocità nella via Aurelia, in direzione di Livorno. Avete ascoltato la lettura di alcune pagine del libro di Umberto Lenzi, Spiaggia a mano armata, Rizzoli, 282 pagine, 8,80 €. Nei giorni scorsi il Tribunale di Milano ha condannato Lele More ed Emilio Fede a 7 anni di carcere ciascuno per favoreggiamento della prostituzione. Nel corso del processo Ruby, per trovare condanne simili per lo stesso reato, bisogna tornare indietro di 6 anni, quando 8 rumeni vennero processati per aver costretto alla prostituzione un gruppo di bambini. Bambini tra i 10 e i 13 anni comprati in Romania e costretti a prostituirsi in piazza Trento a Milano. Segregati di giorno e sorvegliati sui marciapiedi di notte. Picchiati quando l'incasso era basso dall'organizzazione che li sfruttava provvedendo a tutto, dall'alloggio alla preparazione dei pasti al procacciamento di clienti. Era il 2007 e il Tribunale di Milano condannò 8 romeni, accusati a vario titolo di favoreggiamento della prostituzione, riduzione in schiavitù, associazione a delinquere, violenza, minacce e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. La vicenda di quei piccoli schiavi del sesso fece scalpore e anche la CNN seguì il caso. Bisogna tornare al 2007 per ritrovare pene così dure come quelle emesse nei confronti di Lele Mora, 7 anni, Emilio Fede, 7 anni, e Nicole Minetti, 5 anni, condannati in primo grado per induzione e favoreggiamento della prostituzione, per mora e fede anche minorile, nel processo Ruby Bis sulle cene eleganti ad Arcore. Nei corridoi del tribunale e fra le stanze della polizia giudiziaria non c'è difficoltà ad ammettere che a Milano, per reati analoghi, le pene siano assai inferiori. Solo la cancelleria penale, pur nell'impossibilità di estrapolare statistiche in tempi brevi, si dice convinta che sì, qualche volta, ci sono state sentenze così rigorose. Eppure la legge Merlin, ancora in vigore, prevede una pena dai 2 ai 6 anni per chiunque, in qualsiasi modo, favorisca o sfrutti la prostituzione altrui, mentre l'articolo 600 bis del codice penale, prostituzione minorile, prevede dai 6 ai 12 anni di carcere. Al mio cliente sono state riconosciute le attenuanti generiche, si sfoga Gianluca Maris, il legale di Lele Mora, e gli hanno dato 7 anni. Senza attenuanti cosa avrebbe preso? 10 anni? 7 anni, la stessa condanna di Paul Sorin Rus. Era il romeno che, con la violenza, coordinava i bambini che si prostituivano sui marciapiedi e che all'alba raccoglieva i proventi. Avete ascoltato la lettura dell'articolo «Fa più paura Lele Mora o uno schiavista di bambini?» da Panorama del 31 luglio. Nella Corea del Nord il tablet lo fornisce il governo, ma serve solo a celebrare il regime. Si può imparare a comporre una fila in maniera ordinata o a disegnare una bandiera rossa. Si può celebrare la grandezza del leader, il giovane Kim Jong-un, o offrire il proprio incondizionato sostegno alla gloriosa Repubblica di Nord Corea. Vietato invece l'accesso alla rete, proibito scaricare libri, film, musica e altri prodotti culturali del diabolico Occidente. Il Samgyeon, l'iPad secondo Pyongyang, è solo nominalmente un tablet. Costruito per volontà del governo come ennesimo strumento di propaganda, ha un unico punto in contatto con il mondo di Steve Jobs, l'utilizzo del touch. È invece una sorta di giocattolo per bambini, la versione 2.0 del sapientino comunista. Il tablet contiene lezioni da manuale destinate al balilla nordcoreano, oltre a una serie di giochi che riflettono istinti e gusti del regime più isolato del pianeta. Ci sono i videogame da combattimento che permettono di prendere la mira e sparare ai carri armati. C'è una versione autoctona del popolare Angry Birds. E non mancano ovviamente gli sport come il baseball e soprattutto il basket, di cui Kim Jong-un è un grande fan. 4 mesi fa, in piena crisi diplomatica con gli Stati Uniti, l'ex stella dei Chicago Bulls Dennis Rodman sbarcò a Pyongyang col pretesto di una partita amichevole tra gli Harlem Globetrotters ed alcuni atleti locali, presentandosi come improbabile mediatore. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Davide Vannucci «In Nord Corea il tablet ha l'autobavaglio» dal venerdì di Repubblica del 26 luglio.